Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Le 15 in punto, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove come sempre il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dal la rete. Subito tutti i metodi per contattarci, per tenerci compagnia in questo sabato in diretta con Radio 24. Come sempre, il numero per i vostri SMS e per i vostri messaggi WhatsApp è 349-238-6666. 349-238-6666. Ovviamente c'è anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV. Ci possiamo tenere compagnia fino alle 18, ma intanto scopriamo i temi della prima ora che passeremo insieme. L'appuntamento con il gastronauta, la tendenza è molto selvaggia. Tra poco scopriremo perché, poi andremo insieme a Verona. Le uscite al cinema con le novità in sala, anche con Enrico Pagliarini, però parliamo di cinema. Come si sceglie una sala? Perché non tutti gli schermi sono uguali e non tutti i film vanno visti nello stesso tipo di cinema. Ma iniziamo con il ritorno di una serie TV. Mi chiamo Fox Mulder. Fin da piccolo sono stato ossessionato da un controverso fenomeno globale. Mia sorella minore è scomparsa quando avevo 12 anni. Io sono sicuro che è stato un rapimento alieno. La mia ossessione mi ha portato all'FBI, dove ho indagato su casi inspiegabili in una unità conosciuta come X-Files. Nel 1993 l'FBI ha tentato di screditarmi mandando una scienziata a confutare le mie conclusioni. Nel 2002, in un improvviso cambio di direzione, l'FBI ha chiuso gli X-Files. E le nostre indagini sono cessate. Ma la mia ossessione personale è ancora viva. È tornato X-Files. Poco fa parlavo in mensa con un collega che diceva: ah, ma io pensavo che fosse un restauro, che riproponessero le serie originali. No, è tornato X-Files, nel senso che sono tornati i vecchi attori, ma sono tornati con delle nuove storie. Allora, per sapere com'è, se vale la pena vederlo, come si è arrivati a questo nuovo X-Files, abbiamo una delle nostre esperte preferite del sabato del villaggio. È tornata a trovarci Stefania Carini. Ciao Stefania. Ciao Marta. Allora, in Italia in onda, lo diciamo subito perché a volte parliamo di cose che vanno in onda negli Stati Uniti, che vanno in onda online, che vanno in onda, su Fox, quindi basta seguire Sky, avere il pacchetto di Sky in cui si vede Fox e va in onda anche in Italia. Ne sono andate in onda finora due puntate, no? Finora sono andate in onda le prime due puntate, settimana prossima si avrà la successiva. Cosa dire? Sicuramente la prima puntata è come se fosse un enorme, grande riassunto. Perché erano passati un po' di annetti. Erano passati un po' di annetti. Da quando avevamo c'era abbandonato stato un film in mezzo. Detto questo, bisognava, come dire, riraccontare, riprendere un po' tutte le fila del discorso. Quindi la prima puntata è stata un grande, enorme riassunto. Devo dire con anche dei tocchi non ancora del tutto chiari. La cosa interessante è che vediamo Mulder prendere un po' per i fondelli questo sorta di giornalista internettiano ossessionato dai complotti. Gli dice anche: ma insomma, ma lei crede davvero ai complotti dell'11 settembre? Questo detto da Mulder, come dire, ti lascia sempre, c'è sempre questa ironia. Ha passato la vita cercando, esatto, gli alieni. Dall'altra parte però, proprio grazie a questo giornalista, Mulder e Scully riallacciano un po' le fila del discorso del complotto alieno o umano, perché alla fine in realtà quello che veniva fuori dalle varie stagioni di X-Files era che da un lato sì, c'erano gli alieni, ma forse questi alieni erano delle vittime, forse complottavano con gli umani. Ecco, come al solito, forse come capita anche in altre serie, penso a The Walking Dead, forse non dobbiamo temere tanto l'altro, l'alieno, lo zombie, eccetera, ma dobbiamo temere gli esseri umani. E la prima puntata è stata una sorta, insomma, di modo per riallacciare quella che era la linea guida, no, della serie. È andata bene, sono andate bene le È andata molto bene in America, è andata bene anche su Fox. In America si parla di milioni, ovviamente in Italia siamo sotto perché i numeri sono differenti, qua siamo su una piattaforma a pagamento, i numeri sono un po' differenti. Tra l'altro la cosa interessante è che una volta queste cose da noi andavano in onda sulle reti generaliste, adesso sono contenuto premium, è qualcosa su cui un po' riflettere. In cioè America, in che senso? Nel senso che non incontrano più un pubblico così numeroso? Di sicuro c'è stato uno spostamento. Le PTV italiane sono un po' la nostra generalista evoluta, forse, perché prendono dei contenuti che negli altri paesi vanno in onda sui network free e ne fanno un contenuto premium, speciale, di nicchia. E in realtà X-Files negli Stati Uniti è stato sempre un contenuto per Fox, ma per Fox Network, quindi un canale generalista, è stato ed è tuttora un contenuto per tutti. Quindi noi quando lo vediamo, cioè dobbiamo sottolineare due cose. Da un lato sicuramente un po' gli anni sono passati, devono ancora rifocalizzare un po' le puntate. Non tutto gira per il verso corretto. Sì, io devo dirti che la prima mi sono un po' annoiata perché appunto mi rispiegavano tutto. La seconda, insomma, non sono convintissima, non è che mi sembra che sappiano ancora, però abbiamo appena cominciato e dobbiamo però anche pensare che per noi sono passati tanti anni e soprattutto tanti anni di tante serie TV molto molto belle, cioè X-Files è stata la prima insieme a Twin Peaks di quel genere, cioè capace di far fare alla TV un salto, quindi per noi sono passati tanti anni di tante visioni e soprattutto di tante visioni su anche HBO, reti come dire raffinate, e questo però non è più e non lo è mai stato un contenuto premium in America, è un contenuto che ancora deve parlare a tutti. È un discorso, sì, invece comunque, noi, per noi la differenza non c'è perché le vediamo in tutti gli stessi contenitori. Detto questo, evidentemente ci sono ancora un bel po' di cose da aggiustare. Hai detto, sono passati gli anni e devo dire che una delle più grandi curiosità era, ma sono invecchiati o sono ancora belli? Allora, noi siamo entrambe grandissime fan di David Duchovny, che è un figo spaziale, cioè è pazzesco. Era bello allora ed è bello adesso. La cosa interessante è che loro sono sicuramente invecchiati, ma in realtà anni e anni fa, quando è partita nel 1993, erano molto giovani, soprattutto lei aveva 25 anni, era una ragazzina. Ah, quindi noi siamo qui a capire se lei è invecchiata, ma in realtà è ancora giovane, è anche adesso cresciuta. È cresciuta perché non era piccolina. Era piccolina ed era, come dire, infagottata in uno stile ovviamente serioso, da professionista, era invecchiata anche dal trucco, tra l'altro uno dei modelli di riferimento per Dana Skelly era Nel silenzio degli innocenti. Jodie Foster del senso quindi innocenti. Comunque uno stile proprio per rimarcare il fatto che fosse una donna d'azione ma seria, perché ricordiamoci che è stato anche il primo grande personaggio femminile razionale, era lei la razionale della coppia, lui era l'emotivo, lo è ancora, quindi c'era anche questo salto di gender, come si direbbe adesso. Sì, oggi giornata in cui stiamo attenti e qualsiasi cosa si dice sbagliata. E quindi lei, come dire, era invecchiata dalla narrazione, la voleva più vecchia, aveva 25 anni. Ho fatto il conto, Gillian Anderson adesso è del 68, quindi noi siamo qui a chiederci, ci siamo chiesti se era invecchiata, invece però lei è giovane, è ancora giovanissima. Lui aveva 33 anni e vabbè, ma per i maschi si sa che l'invecchiamento è un po' diverso. Bello rimane. Secondo me è ancora più bello. Secondo me, cioè, sarà che sono passata attraverso anni di californiche. Io sto guardando anche in regia per vedere cosa dice Roberta. No, non lo so, lei no, non è tanto fan. No, cioè, litighiamo solo io e te, David Duchovny. Allora, remake. Si parla anche del remake di Twin Peaks. Anche questo stiamo aspettando. Ma intanto ti chiedo se è perché gli sceneggiatori hanno perso la fantasia o cosa, perché un remake, due remake. Io sostengo che ci sia da qualche anno, almeno un 3-4 anni, un po' di calo nella serialità americana. Una spinta c'è stata molto forte nel passato, ogni anno c'erano almeno due o tre titoli che facevano, ecco, non erano semplicemente belli, perché di titoli belli ne escono, ma facevano fare un salto di qualità alla narrazione da un punto di vista visivo, seriale, di personaggi. Quella cosa che poi mano a mano abbiamo cominciato a dire, sono meglio del cinema, si cominciava a dire così. Assolutamente. Adesso c'è un po' di fiacca, ma proprio perché quando uno stile esplode, ma lo vediamo in tutte le arti, a un certo punto quel modo di mettere in scena la tua arte comincia a diventare, come dire, un meccanismo un po' troppo facile. E poi c'è quello che in America, insomma, se ne discute ormai un giorno sì o un giorno no, quello che viene definito, come dire, potremmo tradurlo in troppa TV, cioè tutte le... Non solo le TV tradizionali, non solo le TV via cavo, non solo ovviamente tutte le TV in streaming producono serie TV ormai, ma anche ad esempio mi viene in mente History Channel, canali quindi che facevano documentari, adesso producono serie storiche, e quindi c'è ovviamente così tanta produzione, significa investimenti che devono aumentare, ma anche una creatività che ovviamente si va a frammentare. Eh sì, tanta roba. Tanta roba non sempre significa saper mantenere non tanto un'altissima qualità, ma avere quello scatto che fa cambiare, fa prendere un'altra direzione alla televisione, al racconto televisivo. Intanto c'è l'amico Franco Bagnasco di Sorrisi e Canzoni che ci ha scritto su Twitter: brutto, triste, lei di plastica. Adesso, questa cosa che quando una ha più di 40 anni deve essere rifatta, non lo so se... No, lei è molto molto magra. Ah, ok. Lei è molto molto magra. Io l'ho intervistata, l'ho vista dal vivo. Ecco, dici com'è da vicino? È assolutamente molto bella, ha una pelle fantastica. E quindi non è rifatta? No, secondo me no. Poi si controllava 20 volte l'inquadratura e se era truccata giusta. Me l'ha fatta un po' penare. Fantastico. Allora, ho un messaggio al 349-238-6666. Un messaggio al quale secondo me però non possiamo dare risposta, perché Sofì, che è disperata, continua a chiedere come e dove ritrovare Mad Men. Le ultime stagioni di Mad Men erano andate, sono solo su Team Vision, mi pare, solo online. Mi pare ci siano online, Team Vision sicuramente, non so se anche su Infinity è arrivato qualcosa. Ah, controlleremo anche se è arrivato qualcosa su Infinity, però di fatto non sono state trasmesse. No, poi c'era Rai 4 che aveva acquistato il prodotto, e credo però probabilmente lo manderà in onda anche l'ultima stagione, cioè dovrebbe mancare l'ultima stagione. Sofì, però pazienta. Non sono Sofì, aggiornata pazienta. Su tutte, anche perché appena lo sappiamo glielo non diciamo solo Sofì. C'è troppa TV, ma c'è talmente tanti modi di vederla in che è un po' difficile mappare tutto ormai. È un po' difficile. Ti ho interrotto però su Twin Peaks, che arriverà credo alla fine di quest'anno ormai. Non... Parlano ormai del 2017. Addirittura. Sì, addirittura. C'è stato uno slittamento. D'altra parte lì è ancora più difficile riprendere il filo, cioè o si cambia totalmente pur avendo in realtà gli stessi personaggi, gli stessi attori, perché e la anche differenza... lì staremo a vedere se sono invecchiati. Lì secondo me si vede. Siamo più a si rischio vede. Delusione. Si vede da alcune foto, questo è innegabile. Lì è anche più difficile perché X-Files aveva creato una serialità molto particolare e capace di tenere nel tempo, cioè c'erano alcuni episodi che sono stati definiti mitologia, quindi che seguivano la storia degli alieni, e poi c'erano gli episodi singoli che uno si poteva godere anche se si era perso qualcosa. E nell'economia televisiva questo è molto utile, perché significa che tu hai sia un pubblico affezionato, sia un pubblico, come dire, che ci capita, che può seguire anche se non si ricorda tutto. Se pensiamo adesso invece quanto è difficile, proprio perché tutto così sopoppizzato, se vogliamo, no? Seguire un'intera serie, perché ovviamente devi ricordarti tutto, ed è anche questo il motivo per cui non si riesce ad avere magari sempre tante stagioni di una serie. Ecco, Twin Peaks era quella cosa lì, aveva inventato o aveva comunque portato in prima serata col genere noir, questa, come dire, grande serialità lunga esplosa su tutte le puntate, tant'è che già la seconda stagione, dopo che avevano rivelato l'omicida di l'assassino di Laura, Palmer, c'era stato un po' un calo della tensione e degli spettatori, quindi lì l'attesa è grande, i però è ancora sono più puntati difficile. Secondo me su Twin Peaks ancora più che su X-Files, però c'è tanto entusiasmo e devo dire, con tutti i difetti che ha X-Files, e ne ha, evidente che c'è qualcosa, però c'è ancora qualcosa da raccontare. Forse ci voleva un'altra regia, un'altra produzione, magari forse anche Carter, il creatore che hanno richiamato, pur essendo molto bravo e uno degli showrunner più importanti che ci sono stati negli anni 90, forse insomma ci voleva anche qualche penna fresca. D'altra parte X-Files ha anche goduto di un grandissimi sceneggiatori, uno di questi è stato poi l'autore di Breaking Bad, quindi insomma, beh, certo, come quindi dire, quelli che poi hanno fatto la grande serialità. C'era tanta roba allora, spesso che lavorava su un solo prodotto, adesso c'è tanta roba che lavora su tantissimo e forse un po' si vede. Stefani, allora mi pare che siano 6 le puntate di X-Files. Ci riaggiorniamo quando è finito, così facciamo un bilancio finale per vedere se è cresciuta la stagione o se... Soprattutto se la rinnovano, perché anche qua... Sì, vedremo. Per questa volta ti grazio e non racconto di quando al liceo tu avevi cercato le foto di... Lo dico, David Duchovny nudo, perché... perché è stata la prima serie del web, perché iniziava a esserci il web, circolavano certe notizie a un certo e allora punto uno dice, ma è vero, ci sono le foto. Ma vediamo come funziona internet, quello volevo capire. Ok, volevi vedere come se funzionava internet, l'hai trovate? No, perché ovviamente c'era una connessione lentissima, perché non potevi cercare, ma dovevi digitare un incredibile. Allora insomma, facciamo non è partito una cosa. Niente. Adesso c'è il traffico. E cerchiamo le foto, vediamo se le troviamo. Per la scienza. No, solo per vedere se funziona internet. Grazie a Stefania Carini, a voi, a presto, ciao. Traffico. Il sabato del villaggio. Ce ne sono un sacco di foto di David Duchovny in costume da mitico su internet. Non possiamo farci niente, è uno dei nostri attori preferiti, è bellissimo, si può scherzare un po' su un attore così veramente, veramente figo, straordinario. Ma dalle serie TV adesso dobbiamo andare a scoprire tutte le tendenze in fatto di cibo, insomma dalle cose belle alle cose buone, e accogliamo il nostro gastronauta così. Born to be wild, perché so che parliamo di qualcosa di selvaggio, di selvatico, non so bene perché, allora lo chiediamo subito al nostro straordinario gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao, ciao, e food wild perché è una grande tendenza, perché c'è il vegano, c'è il vegetariano, ma secondo me la vera tendenza degli anni futuri sarà il selvatico, sarà il selvaggio, sarà il foraging, cioè la ricerca di tutto quello che è commestibile nelle montagne, nelle colline, e devo dire che è una tendenza che sta prendendo, ci sono già diversi ristoranti che non fanno a tutto pasto ovviamente selvatico, ma qua e là ci sono, c'è a Cavalese, c'è il Molin, a Lucca c'è l'Imbuto addirittura dentro a un museo, poi c'è Norbert Niederkofer in Alta Badia, quindi insomma c'è un movimento, però soprattutto non è un movimento solamente in cucina, è un movimento anche nei cocktail. Oggi la grande tendenza, ne abbiamo già parlato in passato, sono i cocktail, quindi diciamo coniugare il cocktail con il selvaggio, con i cibi selvatici, secondo me è una cosa che avrà grande futuro e di grande successo. Allora c'è diciamo un laboratorio. Come funziona? Come funziona? Ti dico, c'è un laboratorio a Desio che si chiama Wooding, dove c'è la foraging per eccellenza, che è Valeria Mosca, abbinata a un grande barman che si chiama Beppe Mancini, che stanno mettendo appunto dei cocktail a base. Ad esempio c'è un drink che è fatto con un'erba di elicrisio, e che viene pestata nella tequila, poi viene riscaldata e poi filtrata, quindi ne viene fuori un sapore aromatico amaro molto intenso. Oppure c'è anche un altro cocktail che è basato, che è fatto con fiori di sambuco uniti alla pectina, ma non alla pectina quella che si aggiunge alle marmellate per no, questa è estratta addirittura dalle mele selvatiche, insomma c'è un lavoro non indifferente. Poi il tutto viene unito al rum e servito ghiacciato. Ecco, i fiori di sambuco sono un ingrediente molto comune perché cresce anche in Italia, quindi diciamo che si trova, non dico facilmente, ma si trova, ma è un fiore che esalta benissimo, appunto, rende fresco i cocktail e anche dissetanti. E poi ce n'è un altro ancora che è fatto con un frutto selvatico thailandese che si chiama Bell Fruit. Questo viene disidratato e poi unito alla vodka. Come vedi, c'è vodka, c'è rum, c'è tequila, quindi diciamo ci sono abbinamenti con questi ingredienti selvatici abbinati con quei distillati che poi fanno la base appunto di tutti i cocktail. E devo dire che io li ho assaggiati e sono molto, ma molto intriganti. Sono molto intriganti perché sono dei sapori e dei profumi che sono abbastanza originali, cioè è difficile trovarli perché è un mix che ti dà qualcosa di completamente diverso. E c'è questo laboratorio che appunto stanno lavorando molto e ne stanno sfornando in continuazione, stanno lavorando e stanno progettando. Quindi credo che, ma poi anche in altre parti d'Italia ci sono già dei mixologist che stanno lavorando con ingredienti, magari meno rari di questi che appunto che usano al Wood Lab, ma secondo me c'è proprio questa tendenza che induce, e devo dire che ha dei vantaggi enormi. Innanzitutto quello che è selvaggio è sicuramente molto naturale, molto più naturale, non passa attraverso delle lavorazioni, e devo dire che è un passo sopra sia ai vegani che ai vegetariani, che in questo momento insomma se la tirano anche molto, e credo che qui siamo invece a un qualcosa di naturalissimo. E devo dire che ad esempio nella cucina ora viene usata la radice di bardana, per esempio la corteccia interna di betulla, il lichene islandico, le gemme di abete rosso, insomma si torna alla natura, alla vera natura, e quindi non so se questo sia un bene per una società dei consumi oppure sia alla fine. Questo sarà tutto da vedere. Ma mi piace questo ritorno, mi incuriosisce molto. Mi incuriosiscono molto i cocktail di cui ci hai parlato, anche se credo che siano piuttosto tosti, piuttosto alcolici, perché mi hai fatto... Ma no, sai, perché vengono usati gli stessi distillati che sono usati per, diciamo, i cocktail più famosi. In aggiunta c'è qualcosa di selvatico, che sono frutti o fiori, quindi frutti selvatici o fiori, quindi... Secondo me non credo che, ad esempio, le gemme di abete rosso, insomma, non credo che siano alcoliche. Solo io che sono una signorina, e magari la vodka per me è un po'... Non lo so. Dovresti provarli. Proviamo. Davide, portami. Ti darò l'indirizzo. Ti porto. Mi porti. Davide, vogliamo già andare a fare un viaggetto? Perché la scorsa settimana, siccome avevamo dei tempi strettinissimi, abbiamo solo dato un tocco di Verona. Ma siccome lo dicevamo, Verona è città pericolosissima, perché ci si va a innamorare a Verona, ai noi. Diamo degli indirizzi giusti per Verona. Va bene, non do Giulietta e Romeo, ma insomma vicino ti darò tutti i posti vicino a Giulietta e Romeo, perché ad esempio il primo che ti do è al Pompiere. E voglio dire una cosa, io l'ho detto già l'altra volta, lo ridico: a Verona è uno dei posti dove mediamente si mangia meglio. Quindi poi, a parte la bellezza della città, e questo è difficile veramente prendere una cannata a Verona o mangiare male. Comunque bene, cominciamo vicino a Giulietta e Romeo, cominciamo dal Pompiere. Il Pompiere è una trattoria, una vera trattoria, con i tavoli uno attaccato all'altro, che poi quando c'è il vinitore è quasi impossibile andarci a mangiare, da tanti sono le prenotazioni di produttori di vino. Lì c'è una scelta veramente, come posso dire, la più esagerata, ad esempio, di salumi. Si cercano proprio i salumi particolari, e c'è un signore che non fa altro che sta alla Berkel, taglia salumi, e quindi si può sentire dal culatello alla mortadella, alla spalla, insomma c'è una grande scelta, e uno può prendere anche un tagliere, però sono le paste le cose migliori, perché sono fatte a mano, e io di solito qui mangio la pasta e fagioli, perché è veramente una grande pasta e fagioli, oppure i risi e bisi ad esempio, quindi anche questa non è secondo me una scelta sbagliata. E poi ci sono le carni, a cominciare dalla pastistrada di cavallo. Qui già immagino qualcuno che dice: ma come il cavallo? Sì, io non faccio altro che dirvi quello che trovate. Certo, non è che certo. Poi spezzi una lama contro e a favore. E dicevo che appunto ci sono carni di tutti i generi, c'è la polenta ovviamente, sempre, c'è anche il cappone. Poi, sempre nelle vicinanze, c'è un posto completamente nuovo, aperto da un anno, da un personaggio che, diciamo, io stimo molto, è un po' un manager di ristoranti, ma ora il suo ristorante, che si chiama Mondo d'Oro, uh-huh. E lui si chiama Stefano Sganzerla, è veramente un oste coi fiocchi. Questo locale, uno esce e dice: ho trovato la semplicità, ma ho trovato la qualità. Qui queste due grandi qualità si sposano, perché non c'è niente di artificioso, non c'è niente di straordinario, ma la vera qualità è la semplicità dei piatti, curatissimi, soprattutto nelle materie prime, biologico, addirittura in qualche caso anche biodinamico, quindi bisogna farsi consigliare dal personaggio, perché anche ha una cultura, devo dire, veramente incredibile, e soprattutto in questo posto c'è una grande cultura del vino, che ama i vini biologici, che ama i vini biodinamici. Ecco, qui è il posto giusto, fatevi servire da Stefano, vedrete che non sbaglierete. E però vi voglio segnalare un piatto, che è l'insalata di gallina alla maniera dello Stefani, di questo cuoco, diciamo uno delle grandi stelle della cucina italiana, ovviamente scomparso 4 secoli fa, ma insomma lo Stefani è sicuramente un ricettario davvero interessante. Qui si fa la vera ricetta dello Stefani. E poi ancora non posso non ricordare a Verona c'è l'antica bottega del vino, è un posto cult, devo dire che è sempre pieno di stranieri, è pieno di stranieri perché è noto in tutto il mondo per gli amanti del vino, ci sono delle collezioni, c'è una cantina di collezioni di vini, diciamo antichi, posso dire antichi, più che altro di vintage veramente lontane, uh-huh. E qui se uno va anche la sera verso le 6 vede un gruppo di aficionados, che sono dei signori che vanno lì da una vita a bere il cicchetto e a mangiare un pezzetto di polenta con sopra magari del baccalà mantecato o la mortadella. Ecco, lì c'è ancora un rito che devo dire è difficile trovare da altre parti, proprio questo rito che non è tanto dell'aperitivo, perché l'aperitivo mi dà già l'idea di un qualcosa di locali molto più sofisticati dove escono i personaggi dall'ufficio. Qui è veramente un luogo che ha, credo, oltre 70-80 anni, e quindi la gente continua ad andare e a stare molto bene, e si mangiano i piatti tradizionali veronesi, ma si beve, io direi, devo dire che si beve benissimo, non bene. Ed è un posto che io consiglio perché si vive un'atmosfera che è un'atmosfera ormai che non si trova più da nessuna parte, ma ci sono anche dei lampadari che si vede che il tempo è passato, e si vedono anche delle altre cose, dei soprammobili, insomma, che sono lì da una vita ma devono essere lì, perché secondo me è un kitsch armonico ed è difficile trovare un kitsch armonico. E poi ancora sempre a Verona c'è un altro ristorante importante che si chiama Il Desco. Il Desco, diciamo, è stato il primo stellato, il primo a raggiungere addirittura 2 stelle in questa città. C'è una cucina molto molto creativa che un po' ha fatto la storia di questa città, dove ci sono stati altri ristoranti storici e tradizionali, ma questo ha preso un po', come si dice, la bandierina. L'altra volta io non avevo citato, lo voglio citare perché lo stavo citando, un posto veramente per giovani, perché ci sono anche posti per giovani, diciamo che Verona è completa, ecco. Ci sono le osterie, ci sono i ristoranti, ci sono le trattorie e c'è anche Tappasotto, che uh-huh. è di Perbellini, un famoso Sherry, dove è una tapas all'italiana, forse il primo tentativo di fare una tapas all'italiana ben riuscita, quindi si mangiano dei cicchetti, ma molto, così per dire, adatti ai giovani e non più sicuramente i cicchetti di una volta. Quindi credo che appunto Verona valga veramente un viaggio e valga un viaggio anche dentro la città, perché appunto si trova di tutto. Poi ci sono tantissime altre osterie, ci sono tantissimi altri posti dove si può mangiare e bere un boccone. Fantastico, Davide. Allora qualche volta torneremo a parlare di Verona, magari quando c'è qualche bel concerto all'Arena, che così mettiamo insieme musica, cibo. Sono molto contenta. Grazie. E poi per il Vinita li parleremo sicuramente. Ragazzi, qua abbiamo già le valigie pronte. Grazie a Davide Paolini, al prossimo sabato. Ciao Davide. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, perché è già entrato in studio con un po' di caos Enrico Pagliarini. Se avete sentito dei rumori, era lui che entrava in studio. Una breve pausa e ci ritroviamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. E intanto arrivano ancora messaggi al 349-238-6666 che ci parlano ancora di serie TV, perché abbiamo iniziato il nostro sabato del villaggio parlando del ritorno di X-Files, cominciando già a capire qualcosa di quello che succederà con il ritorno di Twin Peaks, perché ritornerà anche Twin Peaks. Non guarderò più X-Files, non mi è piaciuto, sembrava un pasticcio di Giacobbo, effettivamente con il complottismo, le cose, però abbiamo visto solo le prime due puntate della miniserie. Faremo un bilancio alla fine per vedere se i nostri giudizi pendono più da una parte o dall'altra. Per ora siamo stati abbastanza così possibilisti, così sulle intenzioni. Aspettiamo. 349-238-6666 il numero per i vostri sms, ma anche per i vostri whatsapp. Chiocciola Marta Cagnola è il mio account di Twitter. Intanto mi arrivano delle foto bellissime di David Duchovny, perché a me piace tantissimo, quindi grazie alle ascoltatrici e alle amiche che mi mandano queste foto favolose di questo attore. Adesso però andiamo al cinema. Questa colonna sonora è già, per me è già un classico. Il film non è ancora ufficialmente uscito nei cinema italiani e io penso che questa colonna sonora, candidata all'Oscar, Ennio Morricone, sia già veramente un classico della storia della musica e della storia della musica da cinema. Hateful Eight, l'ultimo film di Quentin Tarantino, io sono andata a vederlo qualche sera fa al cinema e ci sono andata con Enrico Pagliarini. Buongiorno Enrico, diciamolo, siamo andati Buongiorno. Al cinema insieme a vedere Hateful Eight. Bellissimo. Le canzoni che tu le senti la prima volta sembrano già un classico, sì. Si chiamano Instant Classic. Instant Classic, questo è un Instant Classic. Instant Classic. Allora, non vogliamo parlare tanto della qualità di Quentin Tarantino di Hateful Eight come film, che Enrico è impazzito, Subito sono rimasto un po', sì. Però più passa il tempo più vorrei tornare a vederlo. Vorresti tornare sì, a vederlo. Bellissimo, bellissimo. Ma perché ne parliamo con Enrico Pagliarini? Perché siamo andati a vederlo in maniera un po' particolare, tecnologicamente. Beh, siamo stati un po' particolari. Dei privilegiati, sì. Come altre persone che in queste sere possono andare all'Arcadia, che è un grande, bellissimo cinema multisala vicino a Milano, a Melzo, che è un piccolo paese vicino a Milano, veramente molto, molto. Ci si può andare anche in treno. Io tanti anni fa andai col treno a Melzo. Tra l'altro anche a Cinecittà, credo al Teatro 5 di Cinecittà, l'abbiano programmato per tutto febbraio in 70 mm. Benissimo. Quindi allora, Roma e Milano. Cosa significa allora, 70 mm e perché? Allora, significa, poi ce lo facciamo dire anche da un'esperta, significa che allora, innanzitutto molti dei nostri ascoltatori sanno che la pellicola è scomparsa, il 99% delle sale cinematografiche in tutto il mondo oramai proietta in digitale, se siamo fortunati in 4K, ma purtroppo non è sempre così, comunque in alta definizione. Si risparmia sostanzialmente la distribuzione, cioè non si devono più, perché stampare le pellicole costa tantissimo, trasportarle costa un sacco di soldi, quindi si è risolto il problema. Poi è anche vero che tutto il mondo sta andando verso il digitale, però ci sono alcuni registi che sono particolarmente affezionati. Va anche detto che molti film sono comunque girati in pellicola, poi portati in digitale, distribuiti e proiettati in digitale, però ci sono alcuni registi particolarmente sia appassionati al passato, ma anche appassionati alla grandissima qualità che la pellicola ancora oggi ci restituisce, e girano in 70 mm, che è un formato doppio rispetto al classico 35 mm. Quindi facilissimo. Molto semplice da capire il vantaggio. 70 mm è il doppio di 35, ci stanno il doppio delle informazioni, e la cosa principale che appare all'occhio è questa definizione meravigliosa, incredibile. E su uno schermo grande la cosa si vede ancora di più. Perché ovvio con un pennello grande per dipingere una parete grande. L'Arcadia Melzo ha uno schermo di... La dimensione non è l'unica cosa che conta, perché poi dipende anche dalla qualità, nella vita in generale. Però ha uno schermo da 30 metri, è uno dei più grandi del mondo, poi c'è tutta una serie di altre cose di grandissima qualità, e devo dire che lo spettacolo è unico, unico in Italia sicuramente. Ce ne sono pochissimi al mondo, quindi se uno va all'Arcadia Melzo a vedere Quentin Tarantino in 70 mm può godere di uno spettacolo, un po' come andare agli Uffizi. Uno vede cose che non vede da un'altra parte, un po' ai Musei Vaticani, cioè vale il viaggio, devo dire che... Allora, io sai che sono affezionatissima ai piccoli cinema, ai monosala, perché spesso danno la possibilità di vedere dei film che vanno fuori dai grandi circuiti, che vanno fuori dai grandi blockbuster, però c'è da dire che questi film... con una grande qualità visiva, con un grande impatto visivo, meritano sì. E la proiezione va vista in alta qualità. Io non so se hai spiegato bene i vantaggi del 60 mm, io chiederei, lo chiederei subito a Laura Fumagalli, appunto all'Arcadia di Melzo. Ciao Laura. Ciao Marta, ciao Enrico. Allora ciao. Laura, ma hai detto che il tuo ufficio all'Arcadia è vicino alla cabina di proiezione, cioè tu hai il rumore della pellicola che gira tutto il tempo mentre lavori, ti fa compagnia? Esatto, è proprio così. Laura, ha spiegato bene Enrico il vantaggio del 70 mm? Tutto perfetto, aggiungo che questo film Quentin Tarantino ha utilizzato l'Ultra Panavision 70 mm, che è un formato speciale del 70 mm perché è un formato di proiezione con un rapporto 2.76. Vi dico che questo formato è più largo. Esatto, è stato utilizzato in passato solo per pochissimi film. Pensiamo a Ben-Hur nel 59, Gli ammutinati del Bounty nel 62, Questo pazzo mondo del 63, La battaglia dei giganti. E l'ultimo film ad essere stato distribuito in questo formato Ultra Panavision 70 mm è stato Khartoum nel 66, quindi sono parecchi anni che non è stato inutilizzato per un po', ma diciamo Quentin Tarantino ha saputo reinventarlo e utilizzarlo alla grande. Laura, quanto pesa la pellicola di Hateful Eight? Anzi, dopo postiamo la foto perché l'abbiamo fotografata l'altra sera, perché quando andiamo all'Arcadia ci facciamo sempre portare nella cabina perché vogliamo vedere la pellicola. Quanto pesa? Sì, è arrivata, sono 200 kg di pellicola, sono stati montati dal proiezionista in persona, mio padre Piero Fumagalli, e scorrono nel proiettore per regalare al pubblico davvero delle immagini stupende, dettagliatissime, con un contrasto bianco e nero che neanche un 4K fatto benissimo riesce a regalare. Vi assicuro che è davvero un'esperienza incredibile. Sì, sì. Allora, lo dico io che l'Arcadia non è che proietta tutto in pellicola, proietta quello che si può proiettare in pellicola quando i registi vogliono che sia proiettato in pellicola. In pochissimi cinema al mondo all'Arcadia ci hanno tutte le nuove tecnologie, anzi direi che sia un po' l'eccellenza, non solo in Italia, per quanto riguarda le tecnologie. Tra l'altro, visto che io sono appassionato di audio e andrei al cinema solo per ascoltare l'audio. No, anzi, dilla tutta Enrico, tu andresti al cinema solo per ascoltare la sigletta iniziale della dimostrazione dell'audio. Sì. Ecco. Mi basta quella, poi posso anche andare a casa. Verrà installato a breve, verrà completato un impianto che utilizza questa nuova tecnologia della Dolby che si chiama Atmos, che sarà il più grande del mondo. Io devo dire che mi piacerebbe che tutte le sale cinematografiche ci spiegassero quali sono le loro... Esatto. Perché ovviamente ci sono alcune sale che gli appassionati di cinema, in particolare appunto nelle grandi città come Roma e Milano, sanno essere particolarmente attrezzate. Bisognerebbe sapere quali sono, adesso non fatemi usare, però delle specifiche tecniche per andare a vedere un film come Hateful Eight o come Revenant, cioè questi film... Ma anche un film normale, no? Ma perché a te piace perché il film sia proprio al massimo, no. Però soprattutto con questi film è necessario. Sì. Ma infatti qui veniamo al punto. Io penso che tutti gli esercenti cinematografici, poi ci sono quelli che lo hanno già fatto da tempo, lo stanno facendo ancora oggi, abbiano un'attenzione maggiore e devo dire anche un rispetto del consumatore, cioè dello spettatore maggiore, perché ci sono purtroppo sale che non meritano l'appellativo di cinema. Ci sono delle sale che sono magari trasformazioni di vecchi cinema che però non sono più al passo con i tempi, tecnologicamente parlando. Oggi noi in casa possiamo portarci degli schermi meravigliosi in alta definizione col 4K e si rischia a volte di veder meglio in casa che al cinema, cosa che non è mai stata così e cosa che non dovrebbe essere così, perché io continuo a dire che solo al cinema, in un buon cinema, si può avere un coinvolgimento, uno spettacolo che è irriproducibile a casa, principalmente per le dimensioni dello schermo, ma non solo, per tutta una serie di altre cose. Beh, cioè Enrico mi prende in giro perché dice che certi film che piacciono a me come le commedie, ma beh, quelle le puoi guardare anche sull'iPad, dice, sì. perché non... Però non è poi scherzi così, a parte, no. Però ecco, questi film invece sono determinanti. Laura, invece, per quanto riguarda l'audio, Tarantino ha fatto delle scelte particolari. Il film, diciamolo, inizia con questo ouverture di Morricone che dura parecchi minuti. E quindi solo di audio è una cosa... questa versione che stiamo presentando al pubblico, la versione Ultra Panavision 70 mm, include un overture musicale iniziale di Ennio Morricone di circa 4 minuti, un intervallo esattamente di 12 minuti e delle scene in più rispetto a quella che sarà l'edizione standard che uscirà settimana prossima. L'audio è in formato 5.1 normale, come dicevamo prima, come ricordavate anche voi, Sale Energia si sta completamente rinnovando ed è stato installato questo nuovo impianto della Meyer Sound ed è la più grande configurazione al mondo Dolby Atmos Meyer Sound. Quindi siamo davvero felicissimi di poter dare un assaggio di questo impianto audio proprio prima dell'inizio del film di Tarantino. E devo dire che quando tu dici che l'intervallo di 12 minuti è perché ci sono 12 minuti di pellicola buia e silenziosa, esatto, perché poi alla ripresa, non è che fermate il proiettore, no? No, no, continua. Alla ripresa del film c'è la battuta del personaggio che dice ci siamo lasciati 12 minuti fa, quindi beh, è proprio voluto così, ecco. Da Quentin Tarantino. Grandissimo. Laura, grazie a Laura Fumagalli, Arcadia, grazie. Di Melzo, arrivano anche i messaggi dei vostri fan, ovviamente, perché è veramente un'esperienza particolare visitare un cinema così, ce ne sono davvero pochi nel mondo. Ci mettiamo il cuore e la passione in tutto quello che facciamo, sì. E abbiamo sempre puntato sulla qualità piuttosto che la quantità e credo che sia la cosa più importante, regalare la migliore esperienza cinematografica possibile, davvero il grande cinema sul grande schermo, la cosa più bella che si possa fare. Che meraviglia, grazie Laura, presto, grazie Laura Fumagalli. Ciao Laura, grazie. Enrico, noi ci ritroviamo tra pochissimo, sì. Traffico e poi ancora con il Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Ancora la colonna sonora di The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Stiamo parlando di qualità di proiezione al cinema con Enrico Pagliarini. Bisogna scegliere bene il cinema. Sì, dico un'ultima cosa su Arcadia, partendo però dal numero degli italiani. Purtroppo siamo solo 60 milioni, perché anche questo caso conferma che quando noi facciamo una cosa e la vogliamo fare al meglio, diventiamo numeri uno al mondo, perché certo, effettivamente certo. Ci sono pochissime sale al mondo che possono essere paragonate, per qualità, per dimensione, per progetto anche, perché cioè, il progetto pochissimi vale... significa meno di 10 in tutto il mondo, secondo me. Direi proprio di sì. Sì, sì. Cioè, davvero stiamo parlando di una cosa di questo livello, molto sì, particolare. Sì, sì. Poi se parliamo di sale che possono proiettare con la pellicola, ce ne sono di più, però non è che fa tutto la pellicola, bisogna che ci sia anche un ecosistema. Allora, l'invito che vorrei fare è ai consumatori, che siamo noi, che andiamo, allora, prima di tutto andare al cinema, che è uno spettacolo fantastico, meraviglioso. Sì. Poi si esce, magari si va in compagnia, insomma, questo è un invito che io faccio. Però è anche quello di scegliere le sale, magari facendo qualche chilometro in più. Purtroppo non tutte le zone d'Italia sono vicine a dei bei cinema, però i bei cinema comunque ci sono. Pretendiamo qualità al cinema e magari lamentiamoci se lo spettacolo non è come ce lo aspettavamo. Bene, a volte ci sono state sale anche di grandi catene blasonate di film che in alcune scene erano fuori fuoco. Ma stiamo scherzando? È come che uno va a teatro a ascoltare un concerto e il musicista canna la nota, no? No, certo. No. Quindi lamentiamoci. Ovviamente se lo schermo è grande, meglio. Se la sala ha una platea obliqua, meglio, perché ci sono ancora cinema che dove se tu hai uno alto 2 metri davanti non riesci a vedere bene. Accidenti, che brutto. No, purtroppo. Speriamo che il mercato, visto che i consumatori hanno dimostrato di apprezzare il cinema, perché negli ultimi anni i numeri del cinema ci hanno dimostrato delle crescite interessanti, insomma, speriamo che poi anche il mercato cresca in qualità, lo speriamo, se no dobbiamo fare molti chilometri. Un'ultimissima notazione: il film di Quentin Tarantino esce ufficialmente il 4 febbraio, ma lì è già in programmazione, sì, in questo formato speciale, sì. Quindi però pare non so se ci sono ancora posti, perché pare che sì, le vendite dei biglietti siano... io avevo guardato i primi di gennaio, in questi giorni buona parte della sala era già occupata, già venduta, quindi... Sì. Enrico, 1 minuto e mezzo per parlare di un'app, dai, citaci l'app della settimana. Facilissimo. Allora, ho fatto un'intervista questa settimana a una, chiamiamola startup, anche se sono già 50 le persone che lavorano a questa startup. Si chiama Musement, è un'app che serve per i viaggi e per prenotare molte delle cose che andiamo a fare quando arriviamo in una città, in un luogo, dai musei ai ristoranti, alle visite in luoghi turistici, a esperienze, che ne so, una gite a cavallo in campagna. Ecco, tutte queste cose si possono fare tramite Musement. È scritto Musement, esiste per iOS e per Android. Vado subito a scaricarla perché non ce l'ho ancora. Tra le cose a scaricare anche il podcast di 2024. Certo, di cosa hai parlato questa settimana, ieri sera? Beh, allora, di alcuni trend tecnologici del 2016-2017, dei prossimi anni. Abbiamo parlato anche di Musement. Che è una delle app scelte da Apple quando è venuto Tim Cook. Ah, ecco, è uno di questi esempi. E poi abbiamo parlato di camion, di tir. Io so che sei un grande appassionato di tir. Sì, purtroppo non sono riuscito a fare un giro su camion con sistemi di guida avanzata. Amici camionisti, prendetelo come un appello, portate Enrico Pagliarini a fare un giro in un... Dai, fantastico. Però la domanda che ci siamo fatti è: la tecnologia sta rivoluzionando il mondo delle automobili, che cosa succede nel mondo dei camion? Straordinario, mi piace, lo scarico anch'io. Beh. Grazie Enrico Pagliarini, continuiamo a parlare di cinema, ma ciao. Le uscite in sala di questa settimana. Cristi, guardami. Voglio che ricordi una cosa. Non pensare mai che il mondo ti debba qualcosa, perché non è così. E continuiamo a parlare di cinema dopo aver parlato con Enrico Pagliarini di sale cinematografiche, di come scegliere la sala, di come fruire del cinema. Andiamo invece a sentire cosa andare a vedere questo fine settimana. Ciao Franco D'Assisti. Ciao Marta. Beh, come sempre, fruire del cinema, la cosa migliore è vedere un buon film, cioè, numero certo, uno. Se poi il dopo, film è brutto, anche se la proiezione anche la sala più bella con del tutti mondo, i crismi, non diventa bello. Siamo partiti con questo audio di Joy, film molto atteso, soprattutto perché il cast è amatissimo, il trailer è molto bello e le aspettative sono alte. Sì, è un film che si inserisce nel filone di gente normale che ha fatto cose speciali, che è un vero e proprio filone a Hollywood, soprattutto quando queste persone sono di fronte a invenzioni che poi hanno cambiato la nostra quotidianità. Non c'è bisogno di essere Steve Jobs, intendo dire, no? Anche la donna che ha inventato il mocio ha cambiato la nostra quotidianità. verità, sì, assolutamente. E questo racconta Joy, lo racconta con grande profondità, appoggiandosi tanto sulle spalle di una Jennifer Lawrence straordinaria, nei panni di questa donna che ha sulle spalle una famiglia sconclusionata, che è un vero e proprio limite per le sue ambizioni. Sa di essere geniale, sa di avere l'invenzione giusta in mano, ma sa anche di dover, come dire, fare i conti con un volano che le permetta di arrivare dove vuole arrivare. Lo trova in Bradley Cooper, buon volano. Lo troveremo un po' tutte in Bradley Cooper, che ma però in questo nella caso... fattispecie, oltre a essere Bradley Cooper, fa anche il manager in una società di televendite, in un canale televisivo di televendite, che permetterà l'esplodere di questo prodotto. Proprio perché non è un film perfetto, un po' piatto, non ha grandi scatti drammaturgici, si ha proprio qui la sensazione della grandezza di Jennifer Lawrence, che ormai è diventata una stella tutto tondo e può portarsi sulle spalle anche un film largamente imperfetto. Poi ti dico, da femmina mi piacciono queste storie di donne, io mi sono divertita. Sai, in questo periodo io non so, apro il frigo, apro il forno, ho paura di trovarci dentro verdone albanese, perché ormai sono talmente dappertutto che ho paura di trovarmeli anche in casa. Hanno fatto una promozione del loro film, l'abbiamo fatta grossa, enorme. Ma a questo punto lo andiamo a vedere o no? Con una battuta potrei dire che temessi di trovare un pezzo di un braccio del film Tarantino, invece quello lo rimandiamo alla prossima settimana, quando ne parleremo più diffusamente alla Rosa Purpurea, proprio sotto l'aspetto cinematografico. No, andiamo a vederlo, perché è un Verdone che non fa il mattatore come all'inizio della sua carriera, ma non fa neanche film eccessivamente sfilacciati come è capitato più recentemente. È un film compatto, magari non enorme, trama molto tranquilla, molto semplice, una strana coppia che si trova, un uomo in crisi matrimoniale, attore che poi tra l'altro non riesce neanche più a ricordare le battute sul set, un investigatore veramente di bassa lega, si trovano insieme e trovano la classica valigetta con un milione di euro dentro. Insomma, ecco, i due si sono molto ben trovati sul set. Tra l'altro voglio dire, Marta, che li sentiremo tutti e due ospiti della Rosa Purpurea fra poco qui su Radio 24 per raccontare come è andato il loro sodalizio in questo film, che alla fine sbarca assolutamente dignitosamente il lunario, si ride, si sorride, ed è un film, a mio modo di vedere, tra l'altro ricordo 850 copie, distribuzione monstra, quasi alla Zalone, è un film che potrebbe ripercorrere almeno in parte quel solco e magari portare a casa anche un pezzo di quel pubblico. È da un po' che non parliamo di film per bambini, li portiamo al cinema questo fine settimana? Finalmente sì, non ne parlavamo perché non c'erano, non si trovavano film, pochissimo, nulla. Perché sì, si sa, da Natale, poi dopo i primi momenti quasi da Oscar, invece arriva al cinema Doraemon. Ora Doraemon dovrebbe dire qualcosa di più a quelli della tua generazione. Secondo me 30-40 anni ci vanno subito. Assolutamente, però. Che non ai bambini, ma invece dice molto ai bambini, questo lo dico da papà, perché i bambini molto piccoli hanno riscoperto Doraemon grazie ai canali tematici sul digitale terrestre di cartoni animati e lo amano molto, questo gatto spaziale con il suo padroncino Nobita. Il titolo di questo film è Nobita e gli eroi dello spazio, la storia di questo bambino che tra l'altro sapete nel telefilm è anche soggetto di un paio di bullaccioni di periferia eccetera, sempre con grande leggerezza, ma insomma tenta di trattare temi che sono temi veri, che vorrebbe appunto diventare un supereroe, e chiaramente il suo gatto robot, che può fare di tutto, riuscirà a esaudire questo desiderio. È un film molto garbato, molto, molto family anche, che si può consigliare veramente a tutta la famiglia insieme. Mi è piaciuto perché dici da papà, ma guarda che le tue figlie ormai sono grandi, tra quelle grandi, più... ma quella piccola ha 5 anni, per cui... Perché le altre sono più ormai Bradley Cooper. Le altre sono per Tarantino, ormai, certo, assolutamente. Franco, l'appuntamento con te con la Rosa Purpurea dopo il giornale radio delle 18 e noi ancora insieme sabato prossimo. Ciao, ciao. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, mm-hmm. Perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione, qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, la seconda ora del sabato del villaggio, il nostro consueto appuntamento con i nostri acquisti mentali, tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, consumi, tecnologia, libri. La terza ora sarà quella di RadioTube. Il numero per i vostri SMS è WhatsApp 349-238-6666, invece il mio account di Twitter, per chi volesse usare Twitter, @MartaCagnola. Cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? La musica, Rihanna e le altre, per capire chi sono le nuove regine del pop. I libri del momento con Alessandra Tedesco, i consumi con Maria Luisa Pezzali, ma prima sempre la musica e già con un po' di aria di Sanremo, perché vicino, vicino, vicino. Compiono 50 anni, anzi la festa l'hanno fatta proprio il 28 di gennaio, due giorni fa i Pooh, tra concerti, album, docufilm. Avevamo già annunciato i concerti negli stadi, ne hanno annunciato un altro all'Arena di Verona nella prima metà di settembre con un sacco di ospiti. Ci saranno dei libri, ci sarà un evento TV, una docufilm Fausto Brizzi con un sacco di materiale bellissimo, poi subito un disco e poi anche quattro inediti, tante tante cose le hanno annunciate appunto l'altro ieri in questa festa per i loro 50 anni. Li abbiamo incontrati, eccoli qua. Intanto ci hanno raccontato come si sentono in questi giorni i Pooh. Mi sento molto bene, io sono emozionato, lusingato, felice. Conosco i Pooh come non riuscivo a vederli da fuori, perché io sono stato un Pooh, poi sono stato un ex Pooh e un ammiratore di Pooh. Li ascoltavo in radio, li vedevo in televisione, ma nel dettaglio, che fossero così fighi, così forti, eleganti, raffinati, bravi musicisti, bravi arrangiatori, nel dettaglio non lo sapevo. E sono un po' pentito di essere uscito dai Pooh, soprattutto per questo motivo. Come la vedo? È una giornata indimenticabile questa, 50 anni passati in fretta. Dodi Battaglia, che cosa ci può raccontare di questi 5 anni? Come sono passati? Questi 5 anni? Di questi 50 anni, ho detto. No, ho detto 50, ho detto 50. Stiamo a sentire la registrazione. 50. Il provino da giornalista. Di questi 50 anni. Così, Io va bene. Io ne ho percorsi. Mi dispiace tenere il microfono. No, mi piace come asta. No, di questi 50 anni io ne ho percorsi 48. Ero piccolino quando sono entrato a far parte di Pooh e per me non sono una carriera, sono diventati una maniera di vita. Ho cominciato a suonare, avevo 5 anni, sono entrato nei Pooh a 17, ora ne ho 64, per cui sinceramente non so il 31 di dicembre quando la mia vita cambierà, in che maniera cambierà, però sono anche curioso nella vita, per cui voglio vedere cosa accadrà. Nel frattempo l'unica cosa che possiamo fare, che posso fare, è godermi al massimo di questa celebrazione, questo grande avvenimento che non succede tutti i giorni a un artista in maniera particolare, poi a un gruppo di 4, 5, 3, 5 di tante persone che in questo caso si ritrovano assieme per una grande occasione. Una grande occasione che diventa sempre più importante, le date si aggiungono, l'Arena di Verona. Come fate a organizzare quest'anno in cui poi peraltro dovrete mettere d'accordo mente e cuore, perché non sarà facile essere professionisti alla Pooh con l'emozione di qualcosa di grosso? Ma i progetti comunque sono tutti divisi l'uno dall'altro, per cui ci sarà il momento dei quattro stadi dove verrà registrato il disco live e il DVD. E quelli sono una cosa. Ci sarà l'Arena di Verona in cui ci saranno dei concerti magari più condivisi con amici e ospiti, ci sarà la ripresa nei palazzi dello sport dove invece ci saranno i nostri concerti normali in ambienti diversi, anche per raggiungere quelle persone che magari da Torino non possono permettersi di venire a Milano piuttosto che da Firenze non possono andare a Roma, dico città a caso ma per farti capire il senso della cosa, per cui è abbastanza suddiviso il tutto. Le uniche date che si incastreranno con i palazzi dello sport probabilmente sono quelle all'estero, però anche lì io credo che ci riusciremo a fare tutto quanto. È un momento bello, noi abbiamo detto il 28 di settembre, l'anno finisce il 31 di dicembre, per cui succederanno tante cose, a mano che le abbiamo sicure le annunciamo, oggi ne abbiamo annunciate tante proprio perché le abbiamo certe, ma non è detto che finiscano qui, però tutto entro il 31 di dicembre. Così sappiamo già cosa fare l'anno prossimo a Capodanno, perché ci aspettiamo un evento finale per i Pooh, però... Sì, però deve finire entro la mezzanotte come lo yogurt, scade, capito? Lo facciamo come il maestro di Fantozzi, lo facciamo anticipato, facciamo la mezzanotte anticipata. Appuntamento però Sanremo, con che spirito salite sul palco del Teatro Ariston? Sanremo sicuramente è un palco straordinario per andare a fare una festa come quella che noi immaginiamo che sia quest'anno. Sanremo è il palco più importante della musica italiana e forse anche internazionale, per cui essere lì sopra dopo parecchi anni, perché noi nel 90 andammo in gara, e tornarci adesso invece come ospiti è sicuramente una bella emozione. Andremo lì a raccontare in qualche minuto un po' di tappe della nostra storia musicale e sicuramente andremo ad emozionarci ancora una volta. La cosa bella di tutta questa cosa che si sta mettendo insieme, che durerà appunto un anno, sono le emozioni. Noi veramente di tutto questo la vera cosa impagabile sono le emozioni che ci sta regalando questo tipo di appuntamenti, questi incontri, questo sapere che abbiamo tanta gente che vuole vederci, vuole seguirci, vuole incontrarci, vuole riascoltare un pezzo di storia della musica che in qualche modo è stata la propria storia della musica. Ma Riccardo lo tenete sotto chiave perché c'è Patti in gara che non scappi ancora prima perché l'ha già fatto una volta, No, ma adesso è cambiato molto. È cambiato anche Patti Pravo. No, dico. No, è cresciuto, è maturato, però diciamo che gli è rimasto questo spirito così da bravo toscano, simpatico con la battuta pronta, anche pesante, che adesso al microfono non le può fare, però a microfoni perché spenti non c'era, devo dire che lui si scatena. Ma la cosa bella è che l'evento Riccardo ha portato in mezzo a noi una ventata di tante belle cose, di una bella energia che ha mescolato le carte nel modo più bello. Difatti devo dire che il nostro spirito di gruppo, chiamiamolo, no? Come spesso noi gruppi, no, lo spirito, l'anima del gruppo, è cambiato molto quando è arrivato lui, è cambiato in meglio. Ed è questo, devo dire, che è un altro grande regalo che questo cinquantennale ci sta facendo. Grazie Riccardo. A proposito di regali, per concludere, ci regalerete anche degli inediti e io non vedo l'ora personalmente, perché gli inediti fanno capire che i Pooh hanno ancora la voglia, sì, di fare, perché musica. Ecco, i Pooh hanno ancora tanto da dire a livello musicale e di dire queste emozione, come diceva appunto prima Stefano, che ha travolto, ci ha travolti completamente, ci è venuto veramente la voglia di scrivere, di tradurre in musica quello che stiamo vivendo, così è stato. Adesso i brani sono fatti, li dobbiamo ancora incidere, però anche questa è una cosa che ha aggiunto a questo nostro cinquantennale, questo tassello che sinceramente mancava, e fortunatamente si è aggiunta anche questa cosa che è una, anzi, che è bello per noi, perché abbiamo capito che abbiamo ancora tanto da dire attraverso la musica, ma credo che sia ancora bello ancora di più per i nostri fans. Buon compleanno allora, grazie, ragazzi. Grazie, grazie. Il sabato del villaggio. E al nostro sabato del villaggio è arrivato il momento di parlare di libri. Ognuno di voi arriva qui pieno di speranze, desideroso di scendere in campo. Un mese fa alla facoltà di medicina i medici erano i vostri professori. Oggi i medici siete voi. I 7 anni da specializzandi in chirurgia saranno i più belli e i più brutti della vostra vita. Verrete messi sotto pressione. Guardatevi intorno, salutate la concorrenza. 8 di voi passeranno a una specializzazione più facile, 5 di voi non reggeranno la pressione e a 2 di voi verrà chiesto di andarsene. Questo è il punto di partenza, la vostra arena. La vostra partita. Dipende da voi. Ma non stiamo per parlare di serie televisive. Beh, gli appassionati di Grey's Anatomy avranno già intuito che abbiamo ascoltato un frammento della loro serie televisiva del cuore. Ma per parlare di libri, cosa c'entra Grey's Anatomy con i libri? Lo chiediamo subito a Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta, c'entra moltissimo, perché chi è un fan, chi ha seguito Grey's Anatomy, riesce secondo me a capire meglio uno dei libri che sta diventando un caso editoriale anche in Italia. È scoppiato come caso editoriale in Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti, adesso il libro è arrivato anche da noi, ci sono paginate sui giornali che ne parlano e così via. Però se uno segue Grey's Anatomy, secondo me lo capisce un po' di più. Adesso come mai? Cioè, cosa? Spiegami tutto. Allora, ne ho parlato scherzando, il libro in realtà è serissimo, si intitola Primo non nuocere, storia di vita, morte e neurochirurgia, scritto dal neurochirurgo di fama internazionale, ma comunque inglese, Henry Marsh, pubblicato in Italia da Ponte alle Grazie. Perché dicevo che questo libro è diventato un caso? Beh, perché il neurochirurgo ha sinceramente raccontato più di 30 anni della sua carriera, ma non solo i successi, quelli siamo tutti bravi a raccontarli, ma soprattutto gli insuccessi di un neurochirurgo. Lui parte dal concetto che il neurochirurgo esercita un lavoro naturalmente delicatissimo, lui lo dice a un certo punto, che ha in mano proprio l'anima, i pensieri, i ricordi delle persone, e quella è una grande responsabilità. E quindi attraverso questo libro, che è metà saggio e metà romanzo, che è diviso in vari capitoli secondo le varie malattie che lui ha affrontato nei pazienti, non so, aneurisma, glioblastoma, meningioma e così via, ci racconta in realtà la vita vera, la vita di neurochirurgo, ma soprattutto il rapporto che secondo lui si deve instaurare di sincerità, di schiettezza fra il paziente e il neurochirurgo. Lui parte dal concetto che il medico deve sempre essere sincero col paziente, deve raccontargli anche la sua fallibilità. Infatti quando l'ho intervistato, insomma, lui stesso, Henry Marsh, è stato consulente per una serie televisiva, per un medical drama inglese. Accidenti, quindi non è un caso che ci vengano in mente queste serie televisive. No, non è un caso, io non è uno scherzo quando dico che ho capito tante cose, perché francamente il libro in alcuni punti è un po' tecnico, e l'ho capito ricordando appunto le scene di Derek Shepard, neurochirurgo in Grey's Anatomy. Ma la cosa interessante è che mentre appunto in questi medical drama sembra che i neurochirurghi siano dei semidei, come dire, che riescano veramente a risolvere tutto, la cosa bella, vera e profonda di questo libro è far capire come i medici sono umani, possono sbagliare, e purtroppo quando un neurochirurgo sbaglia le conseguenze non sono da poco. Lui ha avuto il coraggio di dirlo, la comunità medica l'ha comunque sostenuto e sta avendo un grande successo di pubblico. Infatti io ho visto delle paginate in questo periodo sui quotidiani, ne stanno parlando paragonando per esempio l'antidottor House, perché dottor House si sente naturalmente appunto quello che risolve tutti i casi. Lui invece dice semplicemente io, come tutti i neurochirurghi, non possiamo appunto essere degli dei. Il libro infatti inizia dicendo: spesso sono costretto a tagliare il cervello ed è una cosa che detesto fare. Essendo il cervello di consistenza gelatinosa, l'aspiratore è lo strumento principale del neurochirurgo. L'idea che il mio aspiratore attraversi il pensiero stesso, le emozioni e la ragione, che i ricordi, i sogni e le riflessioni siano fatti di quella gelatina è davvero troppo strana da comprendere. Brividi, tantissimi brividi. Così. Alessandra, a chi lo consigliamo? Agli appassionati di serie, ad esempio? Chi ha seguito Grey's Anatomy sicuramente lo capisce, gli appassionati di medical drama sicuramente riescono a capirlo, a persone sicuramente non agli ipocondriaci, ecco. e a quelli che pensano che nella vita appunto tutto può essere relativo, come del resto lo stesso Henry Marsh ci ha detto durante l'intervista, perché la prima cosa che gli ho chiesto è: ma insomma, che differenza c'è fra il vero neurochirurgo e quello che invece guardiamo in Grey's Anatomy? Sentiamolo. I think most these medical soaps, as we call them in English. Credo che in gran parte queste soap mediche, come le chiamiamo noi in inglese, siano in realtà fatte apposta per rassicurare gli spettatori, far credere loro che i medici siano persone migliori e più brave di quello che sono in realtà, e far credere che possiamo vivere per sempre. Insomma, sono delle fiabe per bambini. And again, it was one reason for writing the book, is trying to educate people. Ho deciso di scrivere questo libro proprio per educare le persone su quello che è veramente medicina. Quando da paziente si entra in ospedale, bisogna sapere come stanno le cose. Cerco di far capire ai lettori quali siano le reali difficoltà dei medici. Molti medici non vogliono farlo sapere, ma forse saperlo ti può aiutare. Perhaps it will help you. Beh, una sfida questo libro, non so se voglio leggerlo perché un po' mi spaventa, un po' mi incuriosisce. Io sono appassionata di medicina, quindi a me è piaciuto moltissimo. Capisco che qualcuno possa essere frenato, insomma. Mi fido. Sai che ci scrivono spesso chiedendoci gialli, Alessandra. Hai qualche giallo anche questa settimana? Guarda, gli appassionati di gialli non sono mai contenti, ne vogliono sempre di più. Ce n'è uno anche questa settimana? Come sempre, guarda. Allora, ho scelto quello il nuovo di Roberto Costantini, che si intitola La moglie perfetta, pubblicato da Marsilio. Roberto Costantini, lui in realtà è un docente universitario, insegna alla LUIS. A un certo punto gli è partita la brocca e ha iniziato a scrivere gialli anche piuttosto, pulp. Perché esplorano delle profondità dell'essere che nella vita quotidiana lasciano giustamente in secondo piano e tirano fuori dei lati oscuri, molto oscuri. Sì, molto oscuri. Lui infatti è l'autore della cosiddetta trilogia del male, che era composta da Tu sei il male, Alle radici del male e Il male non dimentica. Invece c'è questo nuovo romanzo che si intitola La moglie perfetta, che ha sempre lo stesso protagonista seriale, però non fa parte della trilogia, diciamo, per una serie di ragioni. Quindi abbiamo ancora come protagonista il commissario di polizia Michele Balistreri, che, indovina un po', è arrogante, alcolizzato, gioca a poker, depresso, una vita solitaria. Beh, il depresso alcolista detective. Però insomma, il romanzo è molto trascina molto, perché ci sono sempre una serie di flashback. Lui deve indagare in realtà su due casi avvenuti anni prima. C'è una donna, Donatella, che è stata uccisa. Poco dopo viene ucciso un docente universitario americano che si trova in Italia per un anno sabbatico, e vengono diciamo sospettate la moglie e la sorella di questo americano. E infatti l'autore Costantini ha preso spunto dal caso di Amanda Knox, nel senso che nel momento in cui vengono arrestate le due americane si crea una crisi diplomatica fra Italia e Stati Uniti, e l'autore lo dice chiaramente che ha preso spunto proprio dagli atti del processo, prima però dell'intervista della Leosini a Rudy Ghede, quindi quella quella secondo me non ha ancora ispirato, ma ispirerà qualcuno. Ancora libri di cui si parla, perché vedo che hai una copertina che mi incuriosisce molto. Sì, Dario Fo in libreria. Dario Fo in libreria, ma anche un esordiente. La cosa che mi ha colpito, questi due libri mi sono arrivati in contemporanea e parlano della stessa cosa, cioè della storia del cosiddetto pugile zingaro, un pugile che era molto famoso in Germania durante il nazismo. Si chiamava Johanna Trollmann, detto Rucheli, e diciamo la storia viene raccontata sia da Dario Fo in Razza di Zingaro, pubblicato da Chiare Lettere, che da un esordiente, Mauro Garofalo, Alla fine di ogni cosa. Copertine simili, mi viene da dire quasi facciamo una scommessa: l'ha scritto meglio questa storia il premio Nobel per la letteratura o l'esordiente Mauro Garofalo? Perché la storia è simile, naturalmente, perché è una storia vera, la storia di questo pugile zingaro che viene naturalmente poi internato, viene anche sterilizzato, insomma subisce tutte purtroppo le cose orrende che ha fatto subire il nazismo. Ma la cosa particolare è che sono usciti insieme, hanno la copertina simile, cioè con la stessa faccia del vero personaggio, del pugile zingaro. È venuta questa... succedono queste cose. Quindi io inviterei gli ascoltatori poi a scriverci, magari poi daremo anche il nostro parere, se l'ha scritto meglio il premio Nobel o l'esordiente. Non te lo chiedo ancora, allora te lo chiedo la prossima settimana. Sì, così perché sto finendo di leggere, li sto leggendo in contemporanea. Ah, proprio. E sì, sto facendo una specie di paragone. Fantastico. Stai facendo i compiti un po'. Sono molto curiosa. Così sulla carta non so per chi ti fare, perché insomma io tifo sempre per gli esordienti, però di fronte a Dario Fo bisogna avere un po' di rispetto. Alessandra, invece il cacciatore di libri. E come sempre, se ve lo siete persi stamattina alle 6:30, perché stavate giustamente dormendo di sabato mattina, potete sentirlo in replica stasera alle 22, ma come sempre in podcast lo beccate sempre. Faccio la donna sandwich, radio24.it per i podcast, @ la tettina per trovare te su Twitter. Olè! Anche perché tu ci aggiorni sempre su quello che stai leggendo, anche se per questa settimana ce l'hai già detto. Grazie Alessandra e al prossimo sabato. Ciao Marta. Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo con il sabato pomeriggio di Radio 24 dopo questa brevissima pausa al sabato del villaggio. Adesso è il momento dei consumi. If I really wanna go out tonight, I never used to go out without you. Not sure, remember how to. Gonna be late, but all my girls gon' have to wait. Cause I don't know if I like my outfit. I tried everything in my closet. Nothing feels like when I'm not with you. Sick of this dress and these Jimmy Choo's. Questa canzone di qualche anno fa ci raccontava di una bellissima ragazza che si chiamava Chantel e che indossava solo la maglietta del suo lui, a lei mancava tanto perché lui evidentemente aveva altro da fare, se n'era un po' andato, e lei si era fatta prestare la maglietta così pensava tanto a lui romanticamente. Parliamo di vestiti prestati, però non credo ci sia niente di particolarmente romantico. Lo chiediamo subito a Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Buon pomeriggio Marta, un saluto a tutti. Beh, si può fare di meglio, insomma, rispetto alla maglietta del fidanzato. Sono d'accordo, anche perché magari quella maglietta lì non era neanche niente di che. Esatto. Parliamo appunto di vestiti e accessori magari griffatissimi in affitto. Si tratta di una tendenza già molto consolidata negli Stati Uniti, dove il capostipite è Rent the Runway, che tu sicuramente conoscerai Marta, e ora sta arrivando anche in Italia. La sharing economy insegna, lo abbiamo detto tante volte, perché da lì passano moltissime delle nuove tendenze, non solo auto e case, parola d'ordine accesso e scambio anziché possesso, quindi si compra sempre di meno e si affitta e si scambia sempre di più. Ti piace Marta? Allora, la prima cosa che mi viene in mente pensando così è che quando, ti ricordi quando si andava spesso ai matrimoni, poi generazionalmente a un certo punto non si va più ai matrimoni, dopo si ricomincia ad andare ai matrimoni per i secondi e terzi giri. Ma quando c'era quel periodo in cui c'erano un sacco di cerimonie e tu ti compravi una borsa e quella dopo dicevi: ma cosa, mi rimetto ancora la borsa di prima? No, allora magari chiedo a qualcuno se mi presta un altro accessorio favoloso, perché non se ne possono mica avere tantissimi. Eh no, ma il guaio è proprio questo. Se poi, come dire, i matrimoni si concentrano magari nella stessa stagione, il giro di amici è lo stesso, sei finita, perché sì, insomma, poi sei sulle foto vestita sveni, sempre uguale. Esatto. Le foto che circolano poi sono sempre quelle, quindi o ti sveni e prendi 3-4 outfit, oppure usi le piattaforme per i vestiti in affitto, perché che già risolvono. Pensavo a tutti i parenti che potessero venirti in aiuto, ma adesso c'è anche, va, spiegami tutto, prendo appunto. Allora, partiamo da drexcode.com, Drex quindi con la X al posto della doppia S, una luxury web boutique, la definiscono le fondatrici italiane, quindi è una startup tutta italiana, abiti femminili di alta gamma, e ci sono veramente dei brand importanti a noleggio, anche borse di lusso per occasioni speciali o meno, appunto. Come funziona? Ci si registra sul sito, si seleziona la taglia e si sceglie. Si può usare anche il servizio prova abito, che consente di provare l'abito in anticipo con un costo di 20 euro che vengono poi dedotti nel caso si confermi l'ordine. Si può richiedere una seconda taglia, questo gratuitamente. Il noleggio dura 4 giorni, quindi anche in caso di weekend con matrimonio siamo coperte, Marta. Sì. Ritiro dell'abito compreso nel prezzo, così come assicurazione e lavanderia. La piattaforma conta già più di 30.000 utenti. Guarda, sto già guardando, già ce n'è uno di Alberta Ferretti che è la prima cerimonia, e io potrei, guarda che bello questo, un color ottanio. Già ti vedo, sì, Marta. Già questo è perfetto, adesso già mi iscrivo. Esatto, allora, altro sito italiano che funziona un po' diversamente, perché due sono i modelli e li andiamo a spiegare, My Secret Dress Room, il sito è mysdroom.com. Questa invece è una community di dress sharing, permette cioè di condividere il proprio guardaroba. Sono appunto due modelli diversi, la era la piattaforma che attraverso gli accordi con le grandi marche fornisce i vestiti, qui invece è la community, praticamente un armadio condiviso, l'armadio di tutte noi aperto per gli scambi a tutte. Sono appunto i vestiti messi a disposizione da quelle che vengono definite le secret stylist, magari fashion addicted, insomma quelle che si sono comprate il mondo. Marta, secondo me tu sei assolutamente papabile. Beh sì, potrei candidarmi. Potrei candidarmi sotto alcuni punti di vista, però effettivamente io vedo molti vestiti da sera e vestiti da cerimonia, e sono proprio quelli che magari uno non può comprare in quantità. Sì, perché in pienissimo spirito sharing economy è l'opportunità di mettere a reddito una cosa che si possiede, magari appunto un abito importante che si è comprato per un'occasione speciale e poi si è lasciato nell'armadio, insomma mettiamolo a reddito o prestiamolo a qualcun altro, può interessare. Servizio completo, in questo caso è compreso anche lo shooting fotografico per promuovere appunto i vestiti nella community, e poi trasporto, consegna, assicurazione inclusa per noleggiare senza preoccupazioni. E infatti la cosa che volevo chiederti è appunto assicurazione, è importante sia se tu noleggi il tuo vestito, io sarei più serena appunto a sapere se indosso il vestito di qualcun altro che sia assicurato. Assolutamente sì, ormai queste piattaforme, insomma, è assolutamente compreso questo servizio, perché sta alla base di quella che viene definita un po' la fiducia condizionata della sharing economy, no? È una fiducia però, come dire, garantita da determinati meccanismi, i siamo feedback. Tutti più sicuri. Esatto. Mi piace, serenità, feedback e assicurazione appunto. Il prezzo nel caso di My Secret Dress Room è definito da chi noleggia, il sito trattiene il 25%. Perfetto. Per coprire tutti i servizi. E poi abbiamo i siti specializzati nelle borse, ne cito due, ce ne sono tanti: borseinaffitto.it e rentfashionbag.com. E poi, Marta, vorrei parlarti di un sito svedese, è stato lanciato proprio qualche giorno fa, è destinato in qualche modo a dare la linea. Ti spiego come funziona. Shareware.se, appunto svedese, collezione di capi d'abbigliamento sostenibili di brand svedesi, li prendi in prestito gratuitamente. Ecco la rivoluzione, ma ad una condizione. Sì. Dopo una settimana dovrai ricondividerli. E come? Per aggiudicarti il capo che hai scelto, devi andare su Instagram e commentare la foto. Questo dà all'utente il diritto di prenderlo in prestito gratuitamente, appunto, per una settimana, dopodiché dovrà ricaricare la foto del capo su Instagram Instagram perché possa essere ricondiviso per un'altra settimana. Ora, capiamo voglio tutti... capire chi ci guadagna. Esatto. Capiremo tutti che si tratta di un'operazione di comunicazione e di marketing, okay, per il brand e visibilità, e soprattutto crea il cosiddetto buzz, chiacchiericcio in rete, condivisioni, che sappiamo essere la nuova merce di scambio, insomma. Io subito donna di piena di poesia chiedo chi ci guadagna. Esatto. E quindi grande operazione appunto di comunicazione e di marketing, però sicuramente come tutte le operazioni di questo tipo darà in qualche modo la linea ad altre operazioni simili in cui il modello di business verrà comunque trovato e quindi si insinueranno quelli insomma che ci guadagnano. Sicuramente teniamo d'occhio la tendenza, Marta. Teniamo d'occhio e magari compriamoci un capobello bellissimo che poi condividiamo e prestiamo come merce di scambio per poi farcene prestare altri. Mi piace molto, ho già la scusa. Come il trapano che è l'oggetto citatissimo nell'ambito sharing economy quando bisogna dire quello più prestato? Sì. Dai. Non compriamo gli oggetti ma prestiamoli. Esempio tipico, il trapano, perché lo usi 3 volte all'anno, cosa te lo compri a fare? Meglio scambiarlo. È il momento dei nostri consigli anticrisi. Dovremmo avere al telefono Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Buon pomeriggio a tutti. Allora Cristina, quali sono le dritte che ci hai preparato questo fine settimana? Allora, carnevale alle porte, parliamo di vestiti, anzi meglio parliamo di costumi. Quali saranno le tendenze del 2016? Bene, ovviamente al primo posto Star Wars, perché se vogliamo stare a vedere abbiamo anche una scelta molto vasta, perché per le femminucce, che vuol dire maschi, femmine, ma vuol dire anche grandi e piccini, abbiamo dai Darth Vader alla Queen Amidala, e sono i classici. Queen Amidala è un po' impegnativa, perché ha un coupe capo un po' complicato. Sì. Però obiettivamente, ma così come abbiamo la principessa Leila, Chewbacca, eccetera. Quindi, e questi, devo dire, sono tendenze che riguardano sia i piccolini, ma anche i bebè, ma anche gli adulti. Soprattutto della principessa Leila andrà moltissimo perché è vissuta in maniera molto sexy. Ovviamente parlo della principessa Leila, non dell'ultimo film. Prima versione. Esatto, prima versione. Poi la scomparsa recente di David Bowie ci riporta a Ziggy Stardust, per cui trucco, capelli, eccetera, e con questo anche un grande ritorno agli anni Ottanta, perché il grande tema di feste, eccetera, sarà fare gli anni Ottanta, e sono tornati sul mercato anche tutta una serie di scherzi degli anni Ottanta, dal, non so, il picchiadito, qualcuno se lo ricorda, che offri un chewing gum... No. E scatta la molletta. Ah, oh, che paura, però non mi metteva l'ansia. Così. Così come le bombe puzzolenti, che quelle non ci mancavano, però pare bene che stiano tornando. Ce le ricordiamo tutte. Così come qui la polvere per starnutire, i vermi da sciogliere nel bicchiere. Manca solo il cuscino scorreggione, poi c'è, no, c'è anche quello. C'è anche quello, c'è anche vabbè, quello. Siamo sì, a posto. Sì, sì. Sono tornati sul mercato e a chi è vissuto quegli anni Ottanta e si è divertito, bello, gli faccia rivivere i propri figli. Mentre, sempre tornando invece all'abbigliamento, più per grandi in questo caso, la mitica Katniss di Hunger Games va fortissimo tra le giovani donne, così come qualcuno si azzarda anche con Essie, perché ha visto Hunger Games e la stylist con parrucche rosa e vestiti assolutamente griffati, ma molto molto particolari. Per chi ci va al testone, quello super chic, Essie è una buona ispirazione. Mentre invece, sempre tornando ai bambini, Minions e Inside Out faranno la loro parte, anche se obiettivamente Inside Out è un pochino più complicato. Tornano. Effettivamente c'è più scelta perché ci sono tanti personaggi, però non è facilissimo inventarsi un costume. Esatto, poi torniamo, il cibo è stato il grande protagonista degli ultimi mesi anche grazie ad Expo, ed ecco ad apparire un sacco di piccoli chef o anche qualche sushi chef, quindi fascia nera in testa o in vita, ed eccoci pronti dietro a un bancone. Quindi anticrisi travestendoci in questo caso, Cristina. Guarda, l'anticrisi è perché di tutti questi costumi che vi ho citato potete, ovviamente i canali di vendita più classico ormai sta diventando internet, e lì stiamo attenti, perché soprattutto quando parliamo di trucchi eccetera eccetera verifichiamo, perché non tutto è regolare e non tutto è sano. Soprattutto occhio alle lenti a contatto e appunto alle pitture per il corpo. Però c'è anche ci sono un sacco di tutorial per farseli da soli, perché in fondo per diventare David Bowie magari diciamo di cantare, però un trucco alla Ziggy Stardust costa pochissimo e basta seguire uno dei tanti tutorial che ci sono sul web e quelli sono gratis. Per i bambini la possibilità di farseli da soli sta diventando sempre più una buona abitudine e magari ci si diverte proprio col proprio bambino. Se non sappiamo cucire utilizziamo una cucitrice e alla fine vediamo che grappettiamo l'abito e tanto non lo affitteremo, non lo regaleremo, però ci saremo divertiti a farlo. Sono molto d'accordo, mi avete fatto venire voglia di carnevale. Io sarò a Sanremo, magari mi mascherò a Sanremo, perché quella settimana non sarò a Milano, anzi con il Sabato del Villaggio saremo proprio al Festival di Sanremo, tante cose a Radio 24 in quella settimana. Grazie a Cristina Lazzati per i suoi consigli, grazie Cristina per essere stata con noi. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Maria Luisa invece, con te l'appuntamento con Essere Avere? Domani alle 22, come sempre, un saluto a tutti. Il sabato del villaggio. Lei è una delle più grandi star del momento, è Rihanna, è uscito il suo disco nuovo che si intitola Anti, questa è Work, è il singolo che in poche ore ha già fatto, ha già scalato qualsiasi classifica. Allora, ci sono ragazze che sono le nuove regine del pop e non solo. Abbiamo bisogno di qualche consiglio per capire meglio Rihanna, per sapere chi dobbiamo tenere d'occhio, chi dobbiamo ascoltare. E allora ci colleghiamo con una delle nostre grandi esperte di musica del Sabato del Villaggio, Chiara Di Giambattista. Bentornata Chiara, ciao! Ciao Marta, eccoci. Insomma, facciamo una cosa tra ragazze, io, te, Rihanna, intanto. Una chiacchieratina fra ragazze. Tra ragazze. Allora, Rihanna, star, io non ho aggettivi, lei è veramente la donna del momento. Sì. È la donna del momento. Allora, innanzitutto è la donna del momento perché, come fanno tutte quelle giuste, è riuscita a stupire tutti, a colto tutti di sorpresa, perché questo singolo è uscito il 27, già non atteso, e ha lasciato un po' tutti di stucco. E poi, praticamente senza neanche avvertire, ha rilasciato su Tidal questo nuovo album, perché sembrava che fossero uscite delle tracce in rete, ci fossero qualche piccola anticipazione. Quindi lei, per evitare qualsiasi tipo di diffusione non autorizzata, ha detto: sapete che c'è? Io questo disco lo metto per 24 ore in download gratuito su Tidal e fate un po' come volete, sentitevi il disco, perché poi il 4 febbraio invece uscirà in supporto fisico. E quindi questa è già stata una cosa che ha lasciato un po' tutti di stucco. E anche perché ci ricordiamo Taylor Swift, che invece diceva: no, io lo streaming e l'ascolto liquido, come si suol dire, no, esatto, dovete comprarvi il supporto fisico. Lei invece è apertissima alla modernità. Apertissima alla modernità, e pare che abbia avuto ragione lei, perché nel giro di 24 ore è schizzato il numero di uno di iTunes in oltre 90 paesi del mondo, per cui insomma, Italia compresa naturalmente, per cui capisci che forse ci stiamo aprendo, ci stiamo muovendo decisamente verso nuovi modi di diffusione della musica, e sembra che Rihanna questo l'abbia capito molto bene. Tra l'altro, insomma, ecco, diciamo che questo è un disco che, come hai fatto sentire tu prima, ha questa collaborazione con Drake, che è un altro golden boy dell'R&B, per cui insomma siamo in buona compagnia. Quindi si è saputa scegliere anche degli ottimi compagni di viaggio, perché poi nel disco ci sono anche delle collaborazioni con dei personaggi molto importanti del panorama R&B mondiale e americano, per cui ti devo dire che il sound è pazzesco. C'è naturalmente anche qualche bella ballad pianoforte, c'è anche una cosa molto bella con chitarra acustica, c'è anche una piccola sorpresa perché si è scelta una cover dei Tame Impala che ha deciso di fare così, anche quella, buttarla in mezzo nella mischia senza farsi vedere quasi, che è Same Old Mistakes, e questo è un pezzo, insomma, i Tame Impala sono uno dei gruppi che ultimamente, questo gruppo australiano è uno dei gruppi che ultimamente ha attirato maggiormente l'attenzione degli esperti di musica, per cui lei naturalmente se li è andata a acchiappare una canzone e ha detto mettiamola in questo nuovo disco e vi faccio sentire come la canto io. Ecco, Delirio, biglietti per i suoi concerti, in particolare la data italiana di Milano, Delirio, tutti che mi hanno chiesto, 13 luglio, ma vai a vedere Rihanna, come si fa ad avere i biglietti per Rihanna? Io non mi aspettavo tanta attenzione per lei, perché poi essendo lei anche protagonista delle Cronache Rosa, è stata fotografata con DiCaprio, se è vero beata lei, dico solo questo, beata lei, ma anche, anche beato lui, perché insomma comunque lei sì. Al DiCaprio gli ne andrà bene una, poverino, cioè insomma se veramente sta con Rihanna speriamo, gli auguriamo anche l'Oscar, forse è veramente il suo anno, vediamo un po'. sì diciamo che è un ragazzo che ha avuto tante peregrinazioni, però lei davvero incontra un pubblico vastissimo, cioè non è più considerata una cantante quasi per ragazze, anche perché lei adesso è dell'88, quindi comincia a non essere più una bimba. Sì, pubblico davvero vasto. Non è più una teenager, ma soprattutto si è avviata sulla stessa strada di Beyoncé, su quella che un tempo era stata la strada, insomma la prepista poi è stata Madonna, dei grandi show, perché poi io, come ti avevo anticipato, io andrò a vederla, non me lo sono lasciato Chiara, la nostra garanzia per quanto riguarda i concerti, Chiara, non manca mai. Sfuggire, non me la lascerò sfuggire, perché sono veramente molto curiosa di vedere cosa metterà in scena, perché la bellezza degli spettacoli di Rihanna, ho visto qualche cosa dei suoi passati tour, è anche la messa in scena, quindi lei si circonda comunque sempre di corpi di ballo di grande qualità, uno spettacolo veramente pazzesco, quindi oltre alla musica di insomma ottima, riesce ad accostare sempre uno spettacolo incredibile, quindi io credo che i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto per la data italiana avranno veramente un bello spettacolo. Allora, intanto il disco mi pare consigliatissimo da Chiara Di Giambattista. Il disco è assolutamente consigliatissimo, insomma se non volete insomma, ascoltare la musica in streaming, tra qualche giorno potrete avere fisicamente in mano l'oggetto del desiderio, ma insomma è un disco assolutamente da ascoltare, non c'è assolutamente nessun dubbio, insomma. Il sogno era quello di averla a Sanremo, intanto però a Sanremo ci sarà un'altra delle regine del pop che è Ellie Goulding. Allora, forse a molti il nome potrà non dire molto così di primo impatto, ma se io vi dico Love Me Like You Do e 50 sfumature di grigio, sicuramente l'hanno visto immediatamente. Tutti, esatto. Se non altro in televisione la scorsa settimana su Canale 5. La scorsa settimana ha fatto ascolti pazzeschi e la canzone Love Me Like You Do è stata scritta apposta come singolo per la colonna sonora di questo film ed è stata praticamente raggiunto il primo posto in classifica in 70 paesi, una cosa pazzesca, cioè 20 milioni di copie, una cosa incredibile, quindi lei è un'altra di quelle, noi la vedremo a Sanremo perché l'hanno confermata come super ospite internazionale, ci sarà una data il 1 febbraio al Forum di Assago, quindi chi credo che non ci saranno più biglietti disponibili, ma provate a dare un'occhiata se c'è ancora qualcosa. Devo dire che lei è un'altra di quelle, una ragazza d'oro, nel senso che comunque ha pubblicato questo nuovo album che si intitola Delirium, da cui sono già stati estratti tre singoli. In questo nuovo disco sarà inserita anche Love Me Like You Do, che era stata invece originalmente pubblicata soltanto per la colonna sonora di 50 sfumature di grigio, e ecco, lei è un'altra sicuramente da non perdersi, perché promette bene e anche lei potrebbe avviarsi verso una strada ben consolidata. diciamo che per citare l'ultima di quella generazione lì, Adele, perché a volte ci dimentichiamo che Adele è giovanissima, perché sembra tra virgolette più anziana, ma è giovanissima anche lei. Lei dichiara in tutti gli album la sua età, no? Perché poi sceglie di anche questo, 25 ha dichiarato la sua età, perché forse noi un po' ce lo dimentichiamo, perché lei ha comunque una presenza molto raffinata che inganna un po' sull'età, mentre invece se ci soffermiamo a pensare che ha soltanto 25 anni sì. ed è già al top di qualsiasi, ha già rotto tutti quanti i record possibili e immaginabili della musica mondiale, una ragazza di 25 anni effettivamente, insomma, lei è ormai sul podio e è ovviamente un personaggio molto differente da Rihanna, certo. però sicuramente Adele, io credo anche lei, come ti avevo anticipato, andrò a vedermela. Ah, fantastico. Chiara, allora facciamo così, noi ci risentiamo quando sei andata a vedere questi live fantastici. Fantastico, dai. Chiara, grazie Chiara Di Giambattista per essere stata con noi. Un abbraccio, Chiara. Noi ci risentiamo tra poco, c'è il GR delle 17, poi Radio Tube.